a Scuola di Rispetto, prevenzione della violenza di genere nelle scuole. Durante le 16 giornate di attivismo contro la violenza di genere, dal 25 novembre al 10 dicembre 2015, abbiamo deciso di rispondere ad un appello internazionale rivolto ai media comunitari per parlare di prevenzione della violenza degli uomini contro le donne. Riconoscendo l'importanza del contesto culturale in cui l'individuo cresce e si sviluppa, abbiamo scelto di raccontare due esperienze locali che hanno voluto affrontare la violenza di genere, partendo dal mondo dell'infanzia e da quello dell'adolescenza, in particolare nell'ambito scolastico. La Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna porta avanti in scuole di ogni ordine e grado diversi progetti di educazione e prevenzione fin dagli anni 2000. Parliamo con Silvia Carboni dei progetti rivolti alle scuole superiori. Siamo con Silvia Carboni, che è psicologa alla Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Lì da ormai molti anni, già dal decennio scorso, vengono portati avanti dei progetti di sensibilizzazione e prevenzione della violenza nelle scuole, partendo proprio dall'infanzia, dalle scuole elementari. Io vorrei in maniera molto semplice proprio che tu presentassi te, il tuo ruolo e che cosa avete fatto grosso modo con piccolo volo d'uccello in questi anni. Io lavoro alla Casa delle Donne da 15 anni e mi occupo, sono la responsabile, la coordinatrice del settore minori, che è un settore all'interno della Casa delle Donne che si occupa prevalentemente di attivare percorsi di sostegno alla genitorialità per le donne mamme vittime di violenza domestica e di portare avanti percorsi di psicoterapia per i bambini o gli adolescenti o le giovani donne vittime di maltrattamenti o abusi sessuali o violenza assistita, intra-extrafamiliare intesi maltrattamenti, cioè sia situazioni di violenza domestica o violenza nelle relazioni di intimità vissute all'interno della famiglia che all'esterno. Questo lo specifico perché oltre a tutta questa parte, diciamo così, clinica del mio lavoro, portiamo avanti insieme anche al gruppo che lavora insieme a me, che è un'altra collega psicologa e psicoterapeuta e una volontaria, portiamo avanti tutta una serie di azioni e di progetti, di laboratori, di formazione, di sensibilizzazione e prevenzione primaria nelle scuole secondarie di secondo grado, cioè nelle scuole superiori, sul territorio di Bologna e provincia. Purtroppo questi per noi non sono interventi che noi riusciamo a portare avanti in maniera sistematizzata ogni anno, ma li portiamo avanti a seconda delle singole progettualità e delle possibilità di finanziamento che abbiamo per portare avanti progetti di questo tipo. Perché questi progetti, come dire, sono sì momenti di confronto, di apertura di finestre sul tema dell'educazione al genere e degli stereotipi di genere, di come questi possono essere collegati alla messa in atto di condotte violente, ma sono veri e propri laboratori che portano i ragazzi, che partono dal presupposto che i ragazzi siano al centro e siano protagonisti delle attività, diventando poi a loro volta peer educator nei confronti dei loro coetanei e delle loro coetanee, quindi cercando di portare avanti azioni che siano non solo di sensibilizzazione ma anche trasformative e che i ragazzi stessi e le ragazze stesse possono portare avanti al di là della nostra presenza, proprio nell'ottica che ognuno di loro e ognuna di loro può promuovere una cultura di rispetto delle differenze di genere e diversa da quella che è la cultura che loro stessi criticano essere una cultura pesante in cui vivere. Quali sono i contesti in cui voi intervenite? In che ambienti sociali vi trovate o se sono degli ambienti misti? Che tipo di situazione trovate quando voi iniziate questi progetti? Conta che gli interventi vengono fatti sia sulle scuole, diciamo così, sugli istituti professionali che sugli istituti tecnici che sui licei, proprio perché quello che è l'evidenza è che in realtà la violenza tocca tutti, diciamo così, gli status sia sociali che culturali e questo naturalmente va a ricadere anche sugli aspetti scolastici, cioè sulle scuole, sulla scelta delle scuole da parte delle famiglie e da parte dei ragazzi. Per cui la nostra scelta rispetto agli interventi è sempre stata una scelta ampia, cioè un po' una non scelta, nel senso una scelta di non scegliere, ma di poter portare e sensibilizzare, poter portare avanti azioni di sensibilizzazione a 360 gradi, non solo su un determinato settore. Negli anni, mentre inizialmente lavoravamo molto con i gruppi di ragazze, quindi gruppi al femminile, invece oramai saranno 10 anni che lavoriamo con gruppi misti, quindi gruppi maschi e femmine, proprio nell'ottica di utilizzare l'ambito dei laboratori per costruire, sperimentare e anche far sperimentare ai ragazzi modalità di comunicazione e di riflessione sugli stereotipi di genere con i generi presenti. Ci sono stati anni in cui abbiamo lavorato anche aderendo a, per esempio c'è stato un anno che abbiamo aderito alla campagna del Fiocco Bianco, in cui quello che si portava avanti e che noi condividiamo è l'idea che il problema della violenza non è una questione solo di donne, che devono risolvere le donne, ma che è una questione anche di uomini. Adesso questa campagna, diciamo così, è stata portata avanti sul territorio di Bologna, non con il nome di campagna di Fiocco Bianco, ma come campagna Noi No, che poi è arrivata anche a Roma, proprio con l'idea che gli uomini dicano no alla violenza contro le donne. Noi siamo state a portare avanti una serie di azioni, sostenute anche da noi come Centro Antiviolenza di Bologna. E quindi questo per dirvi che è stato un periodo in cui lavoravamo in classe con anche un educatore, un collega maschio, proprio per lavorare sul maschile e sul femminile, anche noi presentandoci come maschio e femmina, quindi portando avanti modalità relazionali e personali anche dal punto di vista di definizione di sé direttamente nel nostro stare in relazione con i ragazzi. Poi in questi ultimi anni, da quando nel 2012 abbiamo partecipato a un progetto di ricerca insieme ad altri partner europei che ci ha portato ad attivare una ricerca molto significativa sugli adolescenti del nostro territorio, cosa che è stata portata avanti, azione che è stata portata avanti anche sugli altri territori dei partner europei, sulla percezione della violenza di genere tra gli adolescenti, quindi intesa non come gli adolescenti percepivano la violenza degli adulti, ma come gli adolescenti percepivano la violenza di genere tra di loro, e che ha messo in risalto una serie di elementi estremamente significativi rispetto alla tolleranza della violenza di genere tra gli adolescenti, tra il maschile e il femminile, tra il femminile e il maschile, a tutto il tema della tolleranza alla gelosia, di come la gelosia venga considerata amore, di come certe azioni violente, se inserite in un contesto di gelosia, sono tollerabili. È stato, diciamo così, un preambolo che poi ci ha portato a lavorare attraverso laboratori che hanno coinvolto quasi 500 ragazzi, tra ragazze e ragazze del territorio di Bologna e provincia, delle scuole superiori, a coinvolgerli sui temi della violenza di genere, degli stereotipi di genere, portando poi alla definizione in forma volontaria di alcuni peer educator che al termine di questi laboratori che abbiamo fatto insieme sono loro diventati, diciamo così, promotori attivi con le classi più piccole rispetto alla loro età del progetto che abbiamo fatto insieme e delle riflessioni che loro hanno sperimentato a livello personale e individuale attraverso il laboratorio. Prima di passare anche ai progetti che in questo momento preciso state portando avanti, mi piacerebbe, visto che tu prima ne hai accennato, no, al fatto che è difficile portare avanti con sistematicità interventi di questo tipo, che apporto, che supporto, che sostegno danno le istituzioni locali, regionali alla continuità eventuale di questo tipo di interventi? Cioè, che investimento c'è, no, delle istituzioni in questo, se c'è e se è utile a questo tipo di lavoro? Allora, l'investimento sarebbe molto utile, noi abbiamo un supporto molto forte delle istituzioni locali, sia a livello del comune di Bologna che dei quartieri del comune, in particolare con alcuni quartieri del nostro territorio lavoriamo molto, perché sono loro stessi che ci coinvolgono come centro antiviolenza nel lavoro nelle scuole, inserendo anche l'intervento sul tema della prevenzione alla violenza di genere tra i temi da trattare all'interno e da proporre come quartiere per intervenire nelle scuole superiori. Quindi con alcuni quartieri siamo riusciti a costruire delle relazioni molto significative di lavoro e di stima reciproca, diciamo così, anche che ci hanno portato a portare avanti delle azioni con continuità. Su altri quartieri invece sono interventi più a spot, spesso legati alla disponibilità nostra nel caso in cui magari abbiamo un finanziamento che ci permette di portare avanti progetti e che quindi non diventa un costo per la scuola, oppure a budget della scuola che la scuola investe su questa tematica. Cosa che spesso accade, cioè quando accade, accade perché la scuola si trova in difficoltà rispetto a certe situazioni dove è evidente che ci sono problemi legati alla violenza di genere, oppure ci sono stati episodi di violenza tra i ragazzi o tra le ragazze o altre situazioni molto, molto gravi che coinvolgono la classe o qualche ragazzo o qualche ragazza della classe. Quello che noi facciamo con continuità sono sicuramente gli interventi di sensibilizzazione nelle scuole, non a livello di laboratorio, cioè spesso nelle assemblee di istituto, non solo legate al 25 di novembre, cioè alle iniziative che vengono realizzate per la giornata contro la violenza sulle donne, ma anche in altri momenti in cui magari le singole scuole organizzano momenti assembleari di riflessione, o a volte spesso capita nelle occupazioni scolastiche o nelle autogestioni, che le scuole, sia quelle con cui abbiamo già lavorato e dove magari questi peer educator che abbiamo formato conoscono il tema e quindi hanno già lavorato con noi, veniamo chiamate per fare un incontro per raccontare quello che fa il centro antiviolenza e per sensibilizzare sul tema, che però per noi è un incontro di sensibilizzazione e di informazione, non è un incontro di formazione, perché è un altro livello. Quindi questa parte, diciamo così, di sensibilizzazione e di informazione noi la facciamo con continuità nelle scuole del territorio. Quello che invece facciamo in maniera, diciamo così, con meno continuità, perché dipende dai finanziamenti che sono disponibili, sono proprio i laboratori formativi. Nonostante le forze siano purtroppo limitate, anche il tempo è limitato, queste forze in questo momento esatto in quali progetti secondo te più di valore sono concentrate? Sempre di prevenzione? Sì. Allora, in questo momento stiamo lavorando su un progetto di peer education, che è in realtà una continuità della scorsa annualità, in cui abbiamo lavorato con dei gruppi classe di un liceo, e da questi gruppi classe appunto sono, diciamo così, usciti come volontari alcuni peer educator, a cui si sono accompagnati altri peer educator che non avevano lavorato direttamente con noi, ma che erano comunque peer educator di altri laboratori formativi che avevano coinvolto la stessa scuola, portate avanti però su altri temi, ma che si sono comunque manifestati interessati a formarsi anche sul tema della violenza. Noi abbiamo avuto in questi ultimi 4 anni che lavoriamo su questa direzione degli esiti veramente molto interessanti e molto positivi, anche in termini di voglia e desiderio e iniziativa autonoma dei ragazzi e delle ragazze di realizzare poi iniziative, attività, momenti di sensibilizzazione all'interno dei loro contesti scolastici ed educativi, non solo delle scuole ma anche altri che loro frequentano, per cui diventa un po' un procedere a macchia d'olio, no? Cioè una situazione che porta poi altre situazioni, no? che promuove appunto quello che poi è il nostro obiettivo, diffondere una cultura di rispetto delle differenze, di rispetto dell'altro, consapevolezza degli stereotipi che sono sulle teste di ognuno di noi e degli adolescenti in particolare. Di approccio molto diverso è La città dei bambini nella mente degli adulti, differenze e integrazione, promosso da zeroviolenza.it a Roma. Un progetto rivolto ai genitori e agli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie, che pone al centro i ragazzi e le ragazze, o meglio, la buona crescita come prevenzione alla violenza e come riconoscimento della differenza nello scambio con l'altro o l'altra, come ci raccontano Monica Pepe di Zero Violenza e la psicanalista didatta Jenny Valle. Zeroviolenza.it è un progetto di informazione, ma anche una onlus. Ho deciso, diciamo, di occuparsi di formazione dopo un po' di anni dell'attività del sito, perché sentivamo l'esigenza anche di fare delle cose, ovviamente incontrando direttamente le persone e non soltanto attraverso la rete. Abbiamo ovviamente registrato e lavorato per tanti anni sulla violenza, su tutte le forme di violenza, dalla violenza sulle donne alla violenza sui bambini, gli uomini, sui migranti, ci occupiamo anche di altre questioni e altre forme di esclusione sociale, però nella fattispecie abbiamo, diciamo, capito dalla nostra esperienza che era importante concentrarsi sulla prevenzione della violenza e quindi realizzare un progetto che riguardasse la relazione tra adulti e bambini, tra adulti e adolescenti. E quindi noi pensavamo che su tutto questo ambito delle relazioni interpersonali, che poi sono il primo nucleo sociale, ovviamente l'essere umano, l'individuo si trova poi a districarsi, era importante fare qualcosa, ovviamente era importante farlo con delle persone qualificate, quindi ci siamo rivolti all'Associazione Italiana di Psicoanalisi, quindi a Genivalle, nella prima edizione del corso Genivalle e Simona Disegni, nella seconda edizione dello scorso anno, e poi come compendio, diciamo, per quanto riguarda tutto quello che sono i media, gli stereotipi, l'utilizzo dei social, ci siamo rivolti a Loredana Lipperini, che ci ha seguito nelle due edizioni del corso. A chi era diretto questo corso che avete organizzato e chi erano le partecipanti e i partecipanti? Il corso è nato per genitori e insegnanti dei bambini delle materne e delle elementari. Quando però siamo andati a parlare con i dirigenti scolastici a presentare il corso, molti ci hanno chiesto di aggiungere anche i genitori delle medie. L'identikit, soprattutto, ecco, per quanto riguarda la scuola, è un mondo, dal mio punto di vista, di grande preparazione professionale. Ho trovato degli insegnanti particolarmente formati, particolarmente aperti, particolarmente desiderosi di mettersi in discussione. Anche i genitori che sono venuti, magari sono venuti meno degli insegnanti, genitori, un numero minore, molto interessati a questi temi, molto aperti alla discussione, alla riflessione. Alcuni di loro si sono dovuti misurare con una serie di informazioni, no? Che hanno contribuito a cambiare la loro prospettiva, a volte magari non facilmente, no? Però devo dire che è stato di grande soddisfazione ogni anno vedere al termine del corso, facendo le interviste appunto ai partecipanti, che c'era questo segno del cambiamento della prospettiva rispetto alla questione bambini e adolescenti. E questa è anche una cosa, era uno dei nostri obiettivi, e penso che magari non con tutti, però con buona parte, la maggior parte delle persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare è accaduto. Gli argomenti che voi avete individuato e anche quelli che poi sono diventati dei temi caldi, quali sono stati? Abbiamo parlato appunto molto di media con Loredana Lipperini, abbiamo parlato di media, abbiamo parlato di social network, dell'editoria, quindi dei libri di testo per la scuola, e quindi tutta una serie di questioni su cui probabilmente l'Italia più di altri paesi sconta un ritardo: il fatto che ci siano ancora i testi scolastici dove non si tenga conto sufficientemente dell'identità culturale e storica diciamo delle donne, piuttosto che appunto l'utilizzo responsabile dei social da parte sempre degli adulti, visto che non ci possiamo meravigliare che tanti adolescenti sempre più giovani si comportino in un certo modo sui social, se vedono anche che ci sono degli adulti che fanno, insomma, altrettanto se non peggio. Quindi anche lì c'è un grande discorso da fare di trasformazione, di cambiamento. E poi abbiamo parlato di televisione, di pubblicità, appunto della genderizzazione, il fatto che l'entry point, no, che è proprio il punto di entrata del consumo, di oggetti di consumo, si sia abbassato sempre di più, è stata una manovra fatta dal mercato appositamente perché bambini e bambine comincino a essere sensibili all'acquisto sempre prima, e anche i genitori vengano condizionati in questo senso. Per le bambine c'è una grandissima genderizzazione, quindi c'è un atteggiamento di iperfemminilizzazione, ipersessualizzazione delle cose che comprano, ma soprattutto non solo di giocattoli, ma meccanismi in cui si devono identificare, appunto ovviamente riguardano sempre, no, l'apparire, la bellezza e quant'altro. Quindi questo sicuramente è un tema che ha colpito molto, anche perché Loredana fa una lezione con dei video e quindi dà la possibilità anche proprio di far vedere tutto insieme un po' qual è poi il livello di condizionamento che ognuno di noi poi, a cui ognuno di noi viene sottoposto. Quindi diciamo a grandi linee è stato questo, sono stati questi contenuti del corso. Jenny Valle. Sono Jenny Valle, neuropsichiatra infantile e psicoanalista didatta dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi. Ho accolto con grande entusiasmo questa iniziativa sia perché è un argomento importante, fondamentale, e quindi anche nell'attività clinica abbiamo a che fare molte volte con persone che hanno subito violenza o con gli esiti delle violenze subite, dei traumi vissuti, e qualche volta anche con persone che hanno usato violenza verso qualcun altro. È più raro, ma succede anche questo. E poi perché effettivamente mi piace molto scendere sul campo e incontrare direttamente i problemi, quelli della vita quotidiana, degli educatori, dei genitori, quanto degli insegnanti, che si trovano molte volte e sempre di più sia ad affrontare gli episodi di violenza che ormai ci sono nelle scuole, anche fra i piccoli, fra i giovani, insomma è un fenomeno sempre più presente, la violenza via internet, insomma ce ne sono tante di queste situazioni di cui tutti sentiamo parlare, sia mi interessa anche e aiutare i genitori e gli insegnanti a recuperare a volte la loro funzione educativa e genitoriale, che è anche uno dei problemi che entra fra i tanti motivi che causano violenza, sia a capire anche che cos'è davvero la violenza e a distinguerla dall'aggressività, che è tutt'altra cosa. In questi incontri che voi avete diretto a 4 scuole, giusto? Che tipo di metodologia, insomma, avete utilizzato per favorire anche un ambiente confortevole, diciamo così, in cui i genitori e gli insegnanti avessero modo di esprimere anche le loro esigenze? La metodologia che io ho utilizzato, che è quella che ho sempre utilizzato in tutti i miei corsi e incontri nelle varie scuole, non solo quindi in questa occasione, dipende direttamente dalla mia formazione psicoanalitica. Qual è la nostra funzione di psicoanalisti? È di aiutare le persone a entrare in contatto con le loro emozioni, con i loro problemi, per trovare da sole le loro soluzioni. Quindi noi non diamo mai indicazioni in nessuna direzione. Io credo che si debbano dare poche informazioni fondamentali, utili secondo il tema che viene affrontato, per capire un po' quali sono i passaggi o le difficoltà della crescita o della relazione fra adulti e bambini, e poi accogliere le domande, non per fornire delle risposte preconfezionate, ma per aiutare le persone con pochi interventi appunto a trovare la propria soluzione personale in quella determinata situazione. Quindi io ho utilizzato il primo dei due incontri a disposizione per illustrare brevemente le tappe della crescita, ad esempio, perché noi abbiamo fatto un corso che era immaginato come prevenzione alla violenza. La prevenzione alla violenza, secondo me, si può fare creando le condizioni per una buona crescita, per una crescita sufficientemente buona, per essere più precisi. E siccome si parlava anche molto della violenza di genere, ho parlato anche del genere, di come si costruisce l'identità, di cui l'identità di genere è semplicemente un aspetto. Il secondo incontro è stato invece l'incontro in cui io ho accolto le domande di qualunque tipo, che potevano spaziare dal piccolo problema quotidiano alla domanda più di fondo su che cosa significhi essere uomo, essere donna, la relazione fra i due sessi, le nuove forme dell'amore, le nuove forme della sessualità, le nuove famiglie, insomma gli argomenti ce ne sono stati veramente tantissimi. La violenza è l'uso distruttivo dell'aggressività, non è verso l'altro, ma è contro l'altro, ed è qualche cosa che viene perpetrato da chi è debole nei confronti di qualcun altro che è in una posizione di debolezza. Io di questo ho molto parlato, soprattutto quando, illustrando il percorso della crescita, parlavo della necessità di mettere i confini, e mi è capitato anche di dire, perché è un altro concetto a cui tengo molto, che la madre di tutte le violenze è proprio non riconoscere l'altro come altro da sé, come separato da sé, e quindi non riuscire ad aiutare chi cresce a portare avanti il proprio percorso di separazione e individuazione in termini psicologici. In questo senso, appunto, forse qualche volta ho provocato anche dei momenti critici nella discussione, perché naturalmente ascoltando queste premesse poi ognuno pensa a quello che succede a casa sua, qualcuno si riconosce in qualcosa che io ho detto, ma che vale un po' per tutti noi, perché fare i genitori e gli educatori è tanto tanto difficile. A proposito di questo, che riscontro che avete avuto, penso, immagino anche a fine degli incontri dai genitori, quali sono temi che più hanno colpito te, i genitori o anche gli educatori, gli insegnanti, tra questi temi che tu hai citato? Io credo che quello che ha colpito molto è stato il mio richiamo alla funzione adulta. E volutamente dico questo, non dico funzione paterna o funzione materna, anche perché adesso ci sono nuove forme di genitorialità o di famiglia. Quanto le istituzioni, quindi istituzioni scolastiche, istituzioni locali, regionali, e quanto apporto, supporto e sostegno danno a questo tipo di iniziative anche nella garantire una continuità, no? Un intervento di questo tipo che, proprio perché va ad agire alle radici, insomma, delle formazioni sociali, quindi va ad agire alle radici anche di fenomeni come la violenza di genere, può aiutare poi a prevenire il fenomeno stesso. Io credo che il problema ovunque sia lo stesso e che sia fondamentalmente un problema economico, di fondi che ci sono a disposizione. Quindi io mi sono trovata a lavorare molto bene e volentieri in queste scuole, grazie a questa organizzazione Zero Violenza, i fondi che Zero Violenza ha trovato, perché altrimenti questa iniziativa non sarebbe stata possibile. Mi sono trovata a lavorare molto bene in delle realtà più piccole, dove però anche lì appunto c'erano dei fondi a disposizione. Certo, c'era anche tutto un lavoro, che è anche quello che fa Zero Violenza, di sensibilizzazione, perché prima di tutto bisogna cominciare a parlare della possibilità di queste iniziative e poi bisogna trovare i fondi, perché la mia impressione è che gli insegnanti e i genitori siano assolutamente disponibili e contenti di partecipare ad iniziative di questo genere e hanno bisogno che si faccia anche capire di che cosa si tratta, perché qui non si mette in discussione nessuno, cioè stiamo insieme a lavorare. Certo, le istituzioni dovrebbero aiutare un po' di più, perché di queste iniziative se ne potrebbero fare tante. Io penso che comunque il problema sia economico-politico e penso anche però che, così come insegnanti e genitori negli ultimi anni sono stati investiti da una massa di informazioni che cominciano per psi e che non sono utilizzabili, a mio parere questo vale un po' anche per le istituzioni, quindi anche a livello politico. Io non so quanto chi ci governa, ma lo dico chi ci governa in senso ampio, quindi non mi riferisco ai massimi organi di governo, io non so fino a che punto sappiano che differenza c'è fra un tipo di informazione e un altro tipo di informazione. Noi dobbiamo passare dalla informazione alla formazione. Si danno informazioni e poi la formazione è una cosa diversa. La formazione, per esempio, parlando sempre in base al progetto che noi abbiamo portato avanti, prevenzione della violenza vuol dire creiamo le condizioni per una buona crescita in modo che le generazioni che sono il futuro di domani siano generazioni possibilmente non troppo violente o non violente, come sarebbe nel nostro desiderio, no? Allora, voglio dire, io credo che anche le istituzioni forse dovrebbero documentarsi un po' su tante cose, perché dicevo, insegnanti e genitori vanno aiutati, perché come si fa a essere delle buone madri, dei buoni padri, dei buoni educatori, dei buoni insegnanti se nessuno si occupa del tuo disagio? Perché dovremmo pensare anche appunto al disagio degli educatori. Quindi è per questo io credo che siano stati contenti, anche se con due incontri, ma che potevamo fare? Buttare dei semini. Dei semini che secondo me molti hanno raccolto e avrebbero avuto voglia anche di continuare. Ma se non c'è la possibilità, che si può fare? This segment is part of an audio series produced with the support from the Global Fund for Community Radio of the World Association of Community Radio Broadcasters and Bread for the World.